Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Conto alla rovescia per la prova costume. Meglio, dico io, pensarci ora, perché vogliamo avere il tempo di affrontare il problema con gradualità. Parola magica con cui do il bentornato al dottor Franco Confalonieri, medico sportivo. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Eccoci, intanto do subito il nostro numero verde 800 24 00 24 e i messaggi al 349 238 6666. Allora, dottor Confalonieri, qualche chiletto in più è assolutamente normale, lo mettiamo in conto dopo l'inverno, quindi non preoccupiamoci. Ma se vogliamo fare qualcosa, dobbiamo essere un po' rigorosi e scientifici, rispondere in pratica a queste domande, che passo subito ai miei amici da casa. Quanti sono i chili? Lì bisogna dircelo. Dove li abbiamo messi, perché questi benedetti chili vanno un po' dove vogliono loro, e se è solamente un problema estetico o invece ci accorgiamo che i chili in più ci affaticano, ci appesantiscono, sono un po' come un freno a mano, una zavorra. È d'accordo? Sì, mi sembrano domande perfette. Non dica quanti... così proprio subito perfette. Vedo di recuperare un po' il credito perso in questo periodo di assenza. Comunque, quanti sono sicuramente, dove sono, anche se purtroppo la distribuzione sappiamo che risponde alle leggi genetiche, quindi vanno proprio dove non li vorremmo, sia noi uomini sia voi donne. E il discorso della zavorra è un discorso molto interessante, perché in effetti io lo dico sempre ai miei clienti, ci rendiamo conto di cosa potrebbe significare perdere qualche chilo quando ce li portiamo tutta la giornata. Quindi quello che consiglio praticamente a uno che arriva da me, dico: bene, adesso ti prendi un bello zaino, te lo carichi con 5-6 chili, te lo metti in spalla e te lo porti per tutto il giorno. Sì, tornano poi questi clienti e vedi che differenza dicono, fa. Quindi non è solo un problema estetico, è proprio un problema di sovraccarico, poi c'è tutti i problemi di salute legati al colesterolo, ai grassi, al cuore e quant'altro che ben conosciamo, ma la prova zaino, secondo me, è una prova molto molto efficace. Se volete fare la prova zaino, sono le 11, ve la portate un po' in giro e poi intanto chiamateci se vi caricate lo zaino in spalle. 800 24 00 24. Detto questo, però, non facciamoci illusioni, perché la strada per ritrovare la forma, raccontiamocela fin quando vogliamo, ma passa sempre attraverso una dieta sana e l'attività fisica, che è quella che ci aiuta a bruciare le calorie. A questo proposito, sembra ci siano attività più indicate di altre. In testa alla classifica, le arti marziali come karate e kendo, che promettono di far bruciare in un'ora 900 calorie, l'equivalente di 2 fette di tiramisù. A poche bracciate di distanza, il nuoto. Un'ora di vasche corrisponde circa a 700 calorie, un buon espediente per bruciare un hamburger con patatine fritte e una bibita. Se la giocano quasi a pari merito, calcio e corsa, circa 650 calorie. Sotto le 500, un'ora di tennis amatoriale o un'ora di pedalata al ritmo di 15 km orari, che permetterà di gustare senza sensi di colpa un piatto di pasta con sugo. E voi che sport avete scelto? Quale pensate di scegliere per ritornare in forma? Dottor Confalonieri, comunque ciascuno deve scegliere l'attività fisica più congeniale al suo stato di salute e anche alla sua predisposizione fisica e direi anche psichica. In soldoni, dobbiamo fare uno sport che riusciamo a fare nel corso della giornata e che ci piaccia, perché sennò sì, non io direi funziona. Che dobbiamo essere molto pratici nella scelta dello sport. Quindi primo criterio: posso farlo compatibilmente con la mia organizzazione di vita, quindi sì, ho tempo per farlo, ho la palestra vicina, la piscina vicina, il centro di arti marziali vicine, se no è inutile che ci provi, perché lo abbandonerò molto presto e avrò la scusa per farlo. Il secondo elemento di scelta è: ci sono problematiche fisiche specifiche mie personali che mi impediscono di fare questo sport? Sì. Un problema alla schiena, alle ginocchia, alle caviglie, per cui comincio, poi si aggrava il problema e devo interrompere. Quindi questo è il secondo criterio di scelta. E il terzo criterio: ho il piacere di farlo, nel senso che comunque deve essere uno sport che mi dà un minimo di piacere, ma soprattutto in termini di autostima, perché poi ci dimentichiamo molto spesso di questa cosa, cioè devo fare un'attività per cui alla fine della giornata mi sento più bello e più in forma, per dirlo in modo elegante, avete capito qual è l'equivalente meno elegante, non mi sento una schifezza rispetto a tutti quelli che stanno intorno a me. Quindi il benessere psicologico deriva soprattutto dall'autostima che l'attività che scegliamo ci crea. Oltre ad avere innumerevoli benefici per la salute, un programma personalizzato di esercizio fisico permette di accelerare il metabolismo di base. Contrariamente a quello che si pensa, non è tanto importante quanto si consuma durante l'attività fisica, ma quanto l'esercizio riesca a mantenere attivo il metabolismo anche quando siamo a riposo. Basta riuscire ad aumentare il metabolismo basale di poche decine di calorie all'ora e il gioco è fatto. Sulle 24 ore il valore diventa elevatissimo. Questo è il segreto per dimagrire e si ottiene con una miscela di corretta alimentazione e di esercizio fisico bilanciato. Voilà, tutto qui sembrerebbe da dire. Allora, cosa aspettiamo a provarci? Aumentare il metabolismo basale. Quello che faremo oggi insieme ai nostri esperti, insieme grazie alle vostre telefonate all'800 24 00 24. Intanto cerchiamo di capire come si fa. In linea con noi abbiamo il dottor Filippo Ongaro, che è autore del libro da cui abbiamo tratto queste indicazioni. Si chiama Mangia che ti passa. Il dottor Ongaro è in linea con noi. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi, buongiorno. Direttore sanitario dell'Istituto di Medicina Anti-Aging di Treviso. Dottor Ongaro, intanto bentornato e sono molto contenta che lei sia in linea con noi, perché lei ci svelerà i segreti della nutrigenomica. In pratica ci aiuterà a capire che il cibo non è solamente il carburante, ma fa molto di più. Ad esempio, io l'ho imparato leggendo dal suo libro, che consiglio ai nostri ascoltatori, il cibo dialoga con il nostro organismo, perché ci sono delle sostanze contenute negli alimenti che sono proprio in grado di interagire con i nostri geni, fino a modulare, si dice così, le risposte cellulari. Dottore, è una cosa magnifica questa. Beh, è uno degli ambiti di ricerca sicuramente più affascinanti di questi ultimi anni, che va al di là di quello che poteva essere classicamente la scienza della nutrizione, la dietologia, e ci permette anche di fare un passettino avanti rispetto al concetto puramente calorico, che diciamo anche costringe il paziente cliente a misurare, a pesare ogni grammo di ciò che mangia. E quello che emerge, come giustamente ha detto lei, è proprio questa capacità del cibo di regolare o sregolare i processi cellulari a seconda delle caratteristiche che il cibo stesso ha. Basta pensare che in una vita media di 80 anni mangiamo circa 50 tonnellate di cibo. È terribile pensarci, eh? È terribile. È anche bello, perché... no, bello per fortuna, ma insomma. Beh, diciamo che queste 50 tonnellate, se dovessimo fare un paragone col fare il pieno di benzina in una macchina, a seconda delle caratteristiche di qualità che quel carburante ha o non ha, avrà un effetto completamente diverso sul nostro motore. Quindi diciamo che il fatto calorico non è che vada completamente dimenticato, però certamente 100 calorie, per dire, di verdure non equivalgono a 100 calorie di una bibita gassata, e quindi l'effetto metabolico che si ottiene è diverso, la velocità con cui gli zuccheri entrano in circolo è completamente diverso, e sarà anche diverso l'effetto finale sul peso. E quello, e su questo non si scappa. Intanto io faccio un saltino alla provincia di Ancona, perché do il benvenuto a Pierluigi, che ci chiama all'800 24 00 24. Pierluigi, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori, tutti gli ospiti. Allora, io diciamo, forse sono uno dei pochi fortunati, sono quasi pronto per la prova costume, nel senso che nell'arco di un anno sono riuscito a perdere un 18 kg. 18 kg grazie a un'alimentazione attenta, differenziata, usando anche dei prodotti sostitutivi. Diciamo poi, per quanto riguarda l'attività fisica, volevo chiedere un consiglio al dottore, in quanto io mi sono operato, ahimè, due volte ai tendini d'Achille per infortuni. E quindi deve fare i conti un po'. Quindi ecco, siccome ecco sono anche di corporatura abbastanza robusta, alto 1,90 m, eccetera eccetera, insomma ci sta quasi dicendo che è un fustaccione. Dottor Confalonieri, Pierluigi, due considerazioni rapidissime. La prima, Pierluigi ha avuto la necessità di perdere peso rapidamente perché c'era un sovrappeso evidentemente molto significativo, e in queste situazioni il prodotto sostitutivo può essere consigliato. Io peraltro direi attenzione a utilizzare il prodotto sostitutivo se il vostro è un problema piccolo, relativo o parziale, perché l'indicazione di fondo è sempre quella di adottare uno schema dietetico che poi possiate seguire per tutta la vita. Siccome non si può pensare di stare tutta la vita col prodotto sostitutivo, io starei molto attento all'inserimento nella nostra dieta di questi prodotti. Venendo al problema specifico del nostro ascoltatore, evidentemente il sovrappeso determina un sovraccarico dei tendini, quindi gli sport aerobici sono i più adatti per perdere peso. Nuoto in prima battuta, ciclismo in seconda battuta, sono sport aerobici che sovraccaricano meno i tendini rispetto agli altri e quindi sono particolarmente indicati. Allora, intanto voi chiamateci, scriveteci, diteci se avete qualche chilo in più da buttare giù, dove si è annidato, ricordatevi di aggiungere anche se siete sedentari o sportivi. Troveremo insieme ai nostri due esperti la dieta ideale per i vostri geni, che facendovi stare meglio vi aiuterà, credo, a praticare con piacere e successo l'attività fisica, che serve, oltre che per stare bene, per modellare il nostro corpo e per aumentare, perché no, la nostra autostima. Ho 48 anni e come tutti quelli della mia età, dopo i 45, mettiamo su quella pancettina, rassicurante. Per noi è un compagno di viaggio ideale, è utile, anche in macchina ti appoggi il gomito sopra, davanti alla televisione che stai lì così, è bello, capito? E invece non puoi, perché viviamo in una società che si nutre di immagine, quindi devi sempre essere in forma e tua moglie te lo fa garbatamente notare. Peccato, perché sembri giovanile, terribile parola, però il boilerino davanti, orca miseria. E allora ti arrendi e fai come fanno molti miei coetanei, vai in palestra. Sport è una parola che metti brividi. Io ho un background sportivo del genere, io di sport ho fatto Shanghai estremo, Monopoli selvaggio, Allegro chirurgo, così così, perché avevo paura di perdere l'omino. Però ti rechi in palestra, tu arrivi, già c'è il personal trainer, quello che fa le selezioni all'ingresso, che quando arrivi ti guarda come guardasse uno che viene fatta l'autopsia, proprio un cadavere che cammina, ti guarda e poi comincia a fare così. C'è da lavorare un bel po'. Era Giacobazzi, dottor Ongaro. Questa pancetta che Giacobazzi la descrive, insomma, è un po' un'ode a questa pancetta degli uomini che hanno spesso il problema delle maniglie dell'amore, e sempre ci domandiamo perché uomini e donne ingrassano in modo diverso. Si dice un po' predisposizione, no? I geni dicono la loro, ma noi vogliamo poi attivare questo metabolismo negli uomini e nelle donne. Tante volte quando non riusciamo a perdere peso diciamo appunto il metabolismo lento, rallentato. Dottor Ongaro, siamo nelle sue mani, poi il dottor Confalonieri ci farà muovere. Ma allora, io penso che certamente c'è la genetica che gioca un ruolo importante. Oggi più che di genetica siamo tutti molto più interessati all'epigenetica, cioè a come si può modulare l'espressione dei geni. I geni non sono statici come si tendeva a pensare, quindi diciamo che non è più totalmente vero il fatto che se c'è quel tipo di predisposizione non puoi in qualche modo contrastarla. Chiaro che poi la genetica comunque esercita il suo ruolo attraverso il metabolismo, per esempio anche gli ormoni. Le donne tendono ad ingrassare di più su glutei e cosce proprio per via degli estrogeni, che favoriscono l'accumulo di grasso in quelle zone. Io credo che sia, è chiaro che l'accumulo di grasso localizzato è un tema, se volete, che ha più a che fare con l'estetica che con il principio medico in quanto tale, in termini di salute, è quello che conta di più. Forse gli ascoltatori non lo sanno, proprio il grasso addominale, in quanto viene considerato un organo endocrino vero e proprio, produce un sacco di sostanze proinfiammatorie, sì. mentre è diverso per esempio l'accumulo di grasso su cosce e glutei. Insomma, però, noi abbiamo un grasso buono, noi donne, grasso, e diciamo, vostro della pancetta, pancione, maniglie dell'amore, è un grasso che fa male. È metabolicamente leggermente diverso. Poi è chiaro che l'accumulo localizzato ci si interviene con la dieta a livello generale, però poi necessita chiaramente anche di un intervento un po' di più fatica tramite l'esercizio fisico mirato. Senta, ma dottor Ongaro, e chiedo aiuto anche al dottor Confalonieri, per attivare, no, questo metabolismo, per, come abbiamo sentito da un breve estratto del suo libro, in pratica che cosa dobbiamo fare? Ci sono degli alimenti da preferire piuttosto di alcuni alimenti da togliere? Quando vediamo che, nonostante la dieta, nonostante l'attività sportiva, nonostante questa, la bilancia ci fa vedere sempre lo stesso peso, da dove iniziamo? Facciamo proprio un passetto dopo passetto, dottor Ongaro. Allora, mi viene da dire anche di non creare un'eccessiva ansia riguardo al peso, perché si sa oggi che per esempio lo stress contribuisce ad aumentare il peso e a favorire il deposito di grasso, quindi intanto bisognerebbe cominciare a prendere, come diceva il collega, la cosa sul lungo termine, non è tanto quello che si perde in un mese o due mesi. No, infatti noi iniziamo siamo al 2 di maggio e noi diciamo la prova costume, prendiamo la calma, ma da dove inizio? E io inizierei sicuramente con una revisione della tipologia di alimentazione quotidiana, favorendo di gran lunga tutti i cibi che sono il più naturale possibile, passando a dei carboidrati, per esempio integrali invece che raffinati, aumentando leggermente la quota di proteine, abbondando con le verdure. Sono temi che le persone tutto sommato conoscono. Io non credo che ci sia bisogno oggi, cosa che io non adotto più con i miei pazienti, di una dieta ipocalorica che contiene però una serie di alimenti che non sono geneticamente adatti, nel senso che mangiare poco di cose che non fanno bene non ha molto senso. Io prediligo invece una dieta più flessibile sul piano dell'introito complessivo in termini di quantità e di calorie, ma un po' più rigida sulla selezione degli alimenti e che propende molto per i cibi per cui siamo più programmati. Allora, se volete saperne di più chiamateci, io voglio salutare e dare la parola a Donato che ci chiama da Varese. Buongiorno Donato, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, senta, io arrivo velocemente al dunque così lascio spazio anche ad altre persone. Io ho 37 anni, non sono particolarmente sovrappeso, diciamo to 2 o 3 kg. Ultimamente, siccome non amo moltissimo correre, mi sono messo a fare lunghe camminate. Diciamo che in due sessioni giornaliere, perché purtroppo il lavoro è quello che è, mi faccio due sessioni da 5 km al giorno. Bravo. Percorso misto, non mostruosamente ripido, perché abito in una città relativamente pianeggiante. Però mi chiedevo se questo tipo di attività, unitamente a una dieta normale, quindi non mi metto a mangiare sedani e carotine per intenderci, può essere sufficiente per dare un certo metabolismo. Ecco, più che altro pensavo al discorso metabolico, credo che un'attività così possa aiutare a avere un metabolismo un po' più celere. Donato, lei mi dà molte soddisfazioni, dottor Confalonieri. Donato ha proprio iniziato con delle cose a portata di mano. Noi abbiamo i mercati, quindi rapidamente, oltre che a dire che fa bene, ma che cosa vogliamo aggiungere? Mi toglie la risposta. Sì, sicuramente fa bene, l'attività ideale, anche perché c'è un consumo direttamente legato all'attività e un consumo legato all'attivazione del metabolismo di cui parlava il professor Ongaro. Le due volte a settimana forse sono un po' pochine. Ecco, io cercherei di fare questo tipo di attività, che è facilmente conciliabile con la nostra quotidianità, almeno 3-4 volte a settimana. Essere e benessere. La diversità è una cosa bella, no? Anzi, la diversità è ricchezza, dico io. E si vede anche nei momenti più semplici, più normali di vita quotidiana. Per esempio in spiaggia, no? Anche lì ci comportiamo in maniera diversa. Gli uomini guardano le donne guardano le donne. E ci troviamo difetti a tutte. Maria, tanche larghe, gambe corte, piedi lunghi. Hai visto lo smalto? Teresa Mannino è proprio forte, è vero, noi donne siamo molto critiche nei confronti di noi stesse e nei confronti delle altre donne, l'occhio cade su cosce, glutei, cellulite, 800 24 00 24. Qualche volta vi invidiamo la pancetta, che sarà mai un po' di pancetta, si copre, vero dottor Confalonieri? Basta portare le maglie larghe. Poi finché voi donne guardate le altre donne, noi sopravviviamo tutto sommato. Vado da Elisabetta che ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, grazie per questa possibilità. Dunque, il mio problema è questo, io ho 53 anni, e dunque sono entrata in menopausa da 2 anni e quello che è il mio che era il mio peso è aumentato nell'arco di 2 anni di quasi 9 kg. Sì. ho perso il lavoro, però la mia alimentazione è sempre rimasta quella. Ora ho provato la dieta, famosa dieta del minestrone, lasciamo perdere, anziché sì. Le promesse che non sono state mantenute da questa dieta, sebbene io sia stata rigorosa nel seguirla, non ho avuto molta fortuna. Come mai in menopausa si hanno tutti questi gravi problemi di ingrassamento? Suppongo che il metabolismo subisca degli cambiamenti. Sì, degli scossoni. No, le diete non funzionano. Sembra che in menopausa le diete non funzionino più. Dottor Ongaro, io voglio da lei consigli miratissimi. Non mi dica di mangiare bene. Il problema della menopausa ovviamente è difficile da trattarlo rapidamente così, cioè è un problema ampio che riguarda la sfera ormonale, ma direi di più riguarda la sfera psicologica, ormonale, immunitaria, metabolica, quindi la donna ovviamente subisce un cambiamento molto profondo passando attraverso la menopausa. Un po' come quello, no? Possiamo dire come il salto dopo il menarca, è una seconda adolescenza. Si entra in una fase nuova della vita, in una fase in cui la situazione ormonale è molto differente dalla fase precedente ed è un'entrata molto più brusca di quello che può accadere all'uomo. Si parla anche nell'uomo di un'andropausa, di un ipogonadismo senile, ma è un fenomeno molto più sfumato e molto più lento. Quindi quello che io mi sento di dire è che la menopausa andrebbe gestita a 360 gradi. Sì. Forse questo non riflette quello che accade normalmente, nel senso che viene visto semplicemente una sfera, chiamiamola ginecologica, la cessazione del ciclo, ma non si prendono in considerazione gli effetti molto più ampi anche sul metabolismo che la menopausa stessa ha. Quindi si vede molto spesso nella donna in menopausa un aumento di peso o un cambiamento dell'umore. Ma ecco, dottor Ongaro, però per attivare questo metabolismo, no, e sicuramente abbiamo detto dieta e attività fisica, ma quali sono, come mi scrivono alcuni ascoltatori al 349-238-6666, proprio concretamente, anche attraverso un messaggio, uno schema, le cose che dobbiamo mangiare? Sicuramente cose sane, ma dottore, quando uno vede, come la nostra ascoltatrice, che prova il minestrone, la dieta del minestrone, provi questo, provi l'altro, non vai giù, evidentemente facciamo delle scelte alimentari che non vanno bene, no? Allora, da che cosa iniziamo? Intanto, anche se anche qui è un messaggio noto, ribadisco il concetto che non è un problema di dieta, ma è un problema di stile alimentare da adottare a lungo termine, quindi inviterei gli ascoltatori a ridimensionare le aspettative rapidissime. Cioè, quello che succede è che se uno considera che circa l'1% delle persone che fa una dieta mantiene il peso raggiunto per più di un anno, si capisce che l'approccio che è sbagliato. Allora, certo, ma noi siamo qua per correggerlo. Allora, io partirei sicuramente, nel caso poi di un paese come l'Italia, da una netta riduzione dell'assunzione di carboidrati, in particolare quelli raffinati. Cioè, io lavoro con delle diete che sono a basso carico glicemico, quindi si riduce la percentuale del macronutriente proveniente dai cereali, si adottano soltanto cereali integrali e si aumenta leggermente la quota di proteine nobili e di verdure. Questo, che è una modificazione abbastanza limitata dello stile alimentare, ha però un effetto metabolico molto importante su tutti i circuiti di regolazione dell'insulina e della glicemia, che sono molto legati all'aumento di peso che si ha con gli anni e anche in particolare dopo la menopausa. Ecco, queste sembrano delle accorgimenti molto semplici, perché il gusto e la dieta sembrano non cambiare molto, però attivano una serie di processi. Dottor Confalonieri? Ma sì, molto, molto praticamente sono totalmente d'accordo, è chiaro, va adattato poi allo stile di vita di ciascuno e anche ai gusti di ciascuno. Io lo banalizzerei: una colazione in cui escludiamo i carboidrati, o comunque prendiamo soltanto latte, derivati del latte, frutta, verdura o proteine, a metà mattina e a metà pomeriggio della frutta, dello yogurt con la frutta, un pranzo in cui eventualmente ci concediamo quella minima quota di carboidrati che è necessaria anche per il nostro benessere psicologico. Ma integrali? Meglio se integrali, quindi una quota di riso, di pasta, magari in forma di insalata, di pasto di riso in questa stagione, condita come più preferiamo, prevalentemente con verdure, e una cena in cui magari introduciamo il tutto con un pinsimonio, con una zuppa fredda piuttosto che calda, e proseguiamo con un piatto di tipo proteico. Questo per banalizzare molto nei confronti di gran parte della popolazione. Allora, io vorrei, in questa puntata in cui concentriamo la nostra attenzione sul movimento, scelta di nutrienti, io vorrei anche aprire una finestra sul respiro, che è vita, lo sappiamo, ma che dà vita. Impariamo a utilizzarlo per nutrire il nostro benessere, ad esempio così. Prima di mangiare, attiva il sistema nervoso parasimpatico facendo 5 respiri addominali profondi e lenti, 2-3 secondi inspirazione e 5 secondi espirazione. Questo riduce la fame e la velocità con cui ingeriamo il cibo. Mangiare velocemente peggiora la digestione e aumenta l'accumulo di grasso, specialmente attorno all'addome. Sforzati di rallentare. Anche questo un piccolo consiglio di benessere, l'abbiamo tratto da Mangia che ti passa, autore Filippo Ongaro, che abbiamo in linea con noi. E a proposito di respiro, ho in linea Silvia Salvarani, maestra di yoga. Ciao Silvia. Buongiorno, buongiorno. Silvia, si pensa che per dimagrire si debba sudare e fare fatica, ma non è sempre così. Lo yoga lo insegna e lo dimostra, perché i benefici delle asana non si sentono solo, ma si vedono. Assolutamente sì. Nella mia esperienza ho avuto spessissimo proprio dei riscontri anche in questa direzione. E chiaramente il lavoro dello yoga, non essendo un lavoro aerobico, quindi non è jogging che fa perdere peso in quel modo, ma è un lavoro che agisce sul metabolismo. È chiaro che regolarizzando il metabolismo, le persone che devono dimagrire dimagriscono, come ingrassano le persone che devono ingrassare, perché essendo lo yoga un metodo di riequilibrio generale dell'organismo e non solo, chiaramente una volta che il metabolismo si recupera nel giusto equilibrio, certo che ci vuole tempo. Ritorna. Beh, certamente certo. Non è che accade da un minuto all'altro, però, ma neanche tantissimo. Io ho riscontrato anche da questo punto di vista velocemente, insomma, dei risultati anche sul dimagramento. Quindi, però parliamo sempre di un'attività. Ma noi andiamo regolare. Piano, noi vogliamo andare piano, perché abbiamo capito che se dimagriamo con intelligenza, se facciamo, esatto, se cambiamo gradualmente stile di vita, alla fine ci sentiamo bene. E se facciamo invece dei cambiamenti improvvisi, perdiamo la voglia di perseguire. Intanto volevo chiedere al dottor Ongaro se ha suggerito, dato che lei ha seguito gli astronauti, se ha suggerito mai anche delle sedute di yoga. Ma guardi, è molto interessante sia la testimonianza dell'esperta di yoga che la sua domanda, perché in realtà prendendo spunto dai russi, che hanno una grandissima esperienza dei voli umani di lunga durata, anche noi in Europa abbiamo adottato tecniche di yoga negli astronauti, soprattutto nel periodo pre-volo e immediatamente dopo l'atterraggio. E la testimonianza dell'esperto di yoga e quel piccolo estratto del mio libro testimoniano che è molto più complesso il quadro metabolico e le ragioni per cui si aumenta di peso rispetto al puro equilibrio delle entrate e delle uscite. Diciamo che è molto un modello di laboratorio che poi, insomma, si può in qualche modo adottare, ma come si vede i risultati non sono poi tantissimi. Quel discorso dei respiri prima di mangiare, per esempio, è una tradizionale regola dei giapponesi dell'isola di Okinawa, che hanno per eccellenza una longevità estrema, una qualità della vita molto buona e una bassissima prevalenza di malattie cronico-degenerative. Quindi oggi, adesso noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Dottor Ongaro, l'ho interrotto perché devo dare la linea. Oggi iniziamo con questa semplice regola del respiro. Intanto saluto Silvia Salvarani per essere stata con noi e ci sentiamo presto. Grazie Silvia. Grazie. Viabilità e di nuovo insieme. Essere e benessere. E siamo tornati, voglio dare la linea ad Edoardo che ci chiama dalla provincia di Cremona, che ci sta aspettando da un po'. Edoardo, buongiorno, scusi per l'attesa. Buongiorno. Eccoci. Niente, io sto dal 12 di marzo, facendo un numero credo enorme di addominali tutte le mattine. Dal 12 di marzo? Sì, non vedo, io sono 1,80 m, peso 90 kg, ma non vedo delle sensibili, dei sensibili miglioramenti rispetto al ventre. Lei vorrebbe un ventre con la tartaruga come hanno, come... non proprio una tartaruga, che... no, non proprio tartaruga, ma qualche cosa che gli assomigli, insomma, non la pancia da orsetto. Dottor Confalonieri, purtroppo si sbaglia gli addominali? No, sbaglia la scelta di fondo che ha fatto per perdere peso a livello della pancia. Sì, però se adesso glielo dice così, che lui è dal 12 di marzo che si ammazza lui di va sicuramente avanti a fare gli addominali, anche perché gli fanno bene, sono importanti, migliorano la situazione generale a livello di postura e quindi prevengono anche eventuali problematiche a livello di colonna, però sono poco efficaci nel determinare una perdita di grasso localizzata. Allora invece? Purtroppo la perdita di grasso localizzata è un po' come l'araba fenice, tutti sanno che c'è ma nessuno sa dov'è, cioè è difficilmente raggiungibile. Noi possiamo perdere grasso globalmente, quindi molto banalmente, al di là di qualsiasi altra considerazione, consumando più di quello che introduciamo. Quindi il mio consiglio è: continui col fare gli addominali, però abbini gli addominali a un'attività di tipo aerobico che comporti un consumo. Quindi o le attività classiche, quindi la corsa, il nuoto, la bici per tempi superiori ai 45-60 minuti, oppure se c'è difficoltà provi a fare dell'attività a casa piuttosto che in palestra, in cui alterna 30 minuti di esercizio, 30 secondi, scusate, di esercizio molto molto intenso con 30-45 secondi di recupero, perché si è visto che questi 30-45 secondi di recupero comportano un consumo selettivo dei grassi e quindi favoriscono un'attivazione del consumo dei grassi. Senta, quindi c'è una regola però per fare gli addominali bene, perché ci sono delle persone che si, no, si impegnano molto ma hanno pochi risultati, ma perché non li fanno nel modo giusto. Mi spiega? Bah, al di là di tutte le altre regole, io il consiglio che darei è direi di fare degli addominali statici. Perché l'addominale statico, cioè la contrazione isometrica per dirlo in termini più scientifici, non determina nessun io carico. Io già non ho capito né statico né isometrico. È stato cosa vuol dire? No, ho capito, ma sostanzialmente uno si stende. Allora, il movimento legato alla anche Roberto Scaltritti, che in regia la parte tecnica, che ringrazio visto che era molto interessato, ma aveva capito poco, che lui è uomo, giovane uomo. Allora, diciamo che quando noi mediamente facciamo l'addominale c'è un movimento del busto rispetto agli arti inferiori. Sì. Questi movimenti del busto rispetto agli arti inferiori comportano comunque un coinvolgimento della colonna, che è un settore molto delicato nella struttura di ciascuno di noi. Sì. Se noi invece di fare il movimento ci limitiamo alla contrazione degli addominali senza che ci sia movimento, non abbiamo gli effetti collaterali legati al movimento, ma abbiamo l'affaticamento e il consumo legato alla contrazione stessa. Sì. Questo è l'attività di tipo isometrico. Quindi io dico, noi ci mettiamo in posizione, contraiamo gli addominali più volte per alcuni secondi mantenendo la contrazione e poi recuperando, determiniamo potenziamento e consumo calorico senza sovraccaricare la nostra colonna. Se, l'ho spiegato se, meglio? No, anche perché io vorrei capire, ma se io ad esempio mi metto seduto, Roberto abbiamo capito, vero? Lui mi fa sì, sì con la testa, quindi sono soddisfatto. Quindi io volendo posso fare anche un po' di addominali seduta? Sdraiata, comunque sdraiata. Sì, lì perché cade oltretutto l'asino, c'è la percezione precisa del movimento dell'addome. Luciana, dalla provincia di Bologna. Buongiorno Luciana. Buongiorno. Buongiorno. Siamo qua. Grazie per avermi chiamato. Che, ma no, è un piacere nostro Luciana, veniamo alla domanda. Scusatemi se c'è un po' di eco, perché stavo salendo le scale, mi sono fermata, mi avete chiamato. Vede, quindi già Luciana fa le scale. Uno degli esercizi Bravo. Fondamentali per stare bene. È vero che fa bene anche quando si scende, non solamente a salire. Io ho letto da qualche parte, per questo mi dà molta soddisfazione, che anche il gluteo ci guadagna scendendo le scale. Vero o ho letto male? Ma Sì, è vero. Secondo però me, Luciana, funziona. Io sarei anche più in discesa. Favorevole alle scale in salita che in discesa, perché i potenziali effetti collaterali negativi delle scale in discesa sono superiori agli effetti positivi. Quindi in salita scale, in discesa ascensore. Luciana, allora, lei intanto ha preso fiato. Che cosa ci voleva dire oltre alle scale? Sì, questa cosa che ho lasciato detto nel messaggio, che comunque penso che sia anche un po' purtroppo una caratteristica genetica, come dicevate all'inizio del programma, che tendo sempre ad accumulare grasso nell'addome. La cosa purtroppo mi sgrassia un po' tutta quanta la figura, e insomma mi crea un po' di complessi perché non mi sta bene niente, il vestito mi cazza male, la gonna mi stringe, mi sta male. Quindi insomma pensavo che tipo di sport potrei fare alla mia età, appena compiuto 54 anni, e tra l'altro l'unica cosa che mi rovina, perché sono anche una donnina nel complesso carina, giovanile. Purtroppo... Ma senta, ma Luciana, cosa sarà un po' di pancia, no? Dottor Ongaro, rapidamente. Ma io direi sicuramente qui ci sarebbe da controllare il tema dell'insulina, dell'insulina resistenza, perché in una donna che tende ad accumulare la pancia è più probabile che ci siano degli squilibri metabolico ormonali che sono anche di abbastanza facile risoluzione, perché cadiamo in quella distribuzione che per le donne è atipica e quindi sì, qualche motivo ci deve essere, si può indagare e intervenire in maniera un po' più specifica. Quindi la strada è quella, indagare, Luciana potrebbe fare degli esami. No, sono totalmente d'accordo. Questa è una situazione atipica perché le donne normalmente non accumulano a livello dell'addome. L'accumulo a livello dell'addome è funzionale dal punto di vista estetico, nel senso che delle donne alla fine si guardano le gambe più che l'addome, quindi sicuramente Luciana avrà un grande successo, sì, però è molto a rischio da un punto di vista della salute, quindi sono d'accordissimo col professor Ongaro. Vediamo qual è la problematica legata al metabolismo dell'insulina. Allora, dato che noi ci siamo messi proprio di buzzo buono, oggi abbiamo cercato di prendere spunto dai nostri esperti per capire che cosa si fa per stare meglio, alcuni di voi potranno dirmi, sì, però trovare il tempo. Ecco, abbiamo pensato anche a voi, perché in linea abbiamo l'avvocato Francesco Carraro, che è un avvocato informatore e autore per Franco Angeli di Gestire il proprio tempo. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Abbiamo un minuto e non possiamo sforare, ma sì, rapidamente poi ne dedicheremo una puntata. Cosa devo fare per infilare un po' di attività sportiva, una sana abitudine nell'agenda affollata? Ma direi che l'ha detto proprio, ha usato la parola corretta, abitudine. Noi siamo in qualche modo persone che vivono di abitudini, no? Molto spesso sono abitudini tra l'altro neutre o che comunque non ci portano alcun tipo di vantaggio o persino nocive, come per esempio fumare. Il concetto è quello di innestare nella nostra giornata, quindi nelle 24 ore, uno spicchio di tempo all'interno del quale noi andremo a fare la cosa che poi ci porterà, nel caso vostro, alla prova costume, ad essere superata, no? Quindi, certo, ad avere quel corpo snello che sogniamo. Ovviamente la cosa fondamentale per far questo è la ripetizione, quindi una regola che si insegna nel campo della formazione è la regola del 21. Cosa significa? Che se tu vuoi innestare un'abitudine nella tua vita, devi fare quel tipo di attività almeno per 21 volte consecutive, quindi per 21 giorni, circa 3 settimane, diciamo, consecutivamente. Tu devi trovare, ritagliarti uno spazietto di tempo, una nicchia nell'ambito della tua giornata, dove sai che sicuramente potrai e dovrai fare quella corsetta piuttosto che quella ginnastica. Questa regola del 21, sì, avvocato, la applico da oggi, poi vi racconto com'è andata. Avvocato, ci sentiamo presto, ricordo il titolo del suo libro, Gestire il proprio tempo. Dottor Ongaro, grazie per essere stato con noi, dottor Confalonieri anche, ci sentiamo grazie, come sempre domani, buona giornata. Essere e benessere.